diciamo, nelle scorse puntate abbiamo fatto su non definire i bambini gli unici untori, sulle condizioni lavoratrici della cura, e oggi direi che è arrivato il turno del personale medico-sanitario e dei servizi, diciamo, medici alla persona territoriali, no? Quindi ascoltarli, affiancarsi alle loro lotte adesso, stando nel presente di questa situazione, e chiedere trasformazioni subito. Di questi giorni, per esempio, anche la protesta del personale medico di Piacenza dopo l'ultima notizia di riapertura di buona parte del settore produttivo. Di questi temi parleremo in questa puntata con Francesca Coin, che vi presento a breve. Io sono, come sempre, Madù il lunedì, ma prima di partire diamo le nostre informazioni necessarie. Allora, come diciamo sempre, per molte donne stare a casa non è affatto un'indicazione rassicurante, e quindi vi diamo il numero del CADMI su Milano, 02 5501 5519. In più segnaliamo il canale Telegram di Obiezione Respinta, che continua, diciamo, a postare gli ospedali dove si continua a garantire l'introduzione volontaria di gravidanza, che è t.me/aborto_emergenza-covid-19. Infine, come sempre, vi chiediamo di contribuire alla radio inviando audio sulla mail nonunadimenomilano@gmail.com, gli audio sulle vostre storie di quarantena, di lavoro, d'amore e di odio. Seguiteci sui canali social, che sono nonunadimeno o trattino o puntino Milano a seconda. But if it's all Allora, come vi dicevo, siamo qui con Francesca Coin, che non so se ci sente. Vi sento, buonasera a tutte e tutti. Allora, attualmente sei in UK, alla Lancaster University, ricercatrice, sociologia e soprattutto scrittrice su 150.000 testate che non starò qui ad elencare. Comunque, sì. Con Francesca, diciamo, come possiamo iniziare? Allora, volevamo un po' trattare questo tema, diciamo che potrebbe essere riassunto in come la gestione delle RSA, che per chi non lo sapesse sono ricoveri per anziani e anziane non autosufficienti, quindi la gestione in Lombardia e in tante altre parti d'Italia, e tra l'altro poi ne parleremo anche con Francesca, purtroppo anche in molte altre parti d'Europa e nel mondo, ci sta un po' mostrando, diciamo, la somma degli errori che le regioni hanno perpetuato in maniera, cioè in materia sociosanitaria, no? Direi dall'inizio dell'epidemia. Allora, un po' la domanda di base è quanto questi errori siano, diciamo, dati da un'emergenza di certo senza precedenti, no? Quantomeno recenti, e quanto invece siano delle risultanti di problemi di fatto strutturali che ci portiamo un po' dietro da, direi, alcuni decenni. Infine, un'altra cosa per citare, diciamo, è capire anche quanto l'esercizio di sovranità significa, o ha significato proprio in questo caso specifico, l'esercizio del controllo sulla mortalità, definendo un po' quali siano le vite, diciamo, più degne da salvare e quali meno. Ma volevo, prima di diciamo aprire il dibattito, fare una piccola introduzione più tecnica sull'RSA, va bene Fra? Certo. Allora, l'RSA, diciamo che sono in gergo tecnico appunto residenza sanitaria assistenziale, che è un ente pubblico o privato introdotto negli anni 90 qui in Italia, dove c'è una mescolanza, diciamo, tra personale medico e infermieristico, in prevalenza però infermieristico, quindi OSS, che diciamo si prende cura in forma continuativa di persone in età avanzata non più autosufficienti, no? Quindi non sono case di riposo dove, diciamo, gli anziani sono in grado di in qualche modo badare a se stessi, ma non sono nemmeno ospedali, no? Dove invece si rivolgono, diciamo, i pazienti con patologie in fase più acuta, no? La cosa da sottolineare è che le RSA in Lombardia sono, diciamo, prevalentemente gestite da privati. Quindi ci sono, cioè non ci sono solo, per capirsi, le strutture accreditate, no? Cioè pubbliche che sono, scusate, private che sono accreditate al pubblico, ma di fatto ci sono anche molte strutture pubbliche che sono gestite dai privati, e questo è un po' il paradigma anche del modello lombardo, no? Però l'ente che gestisce tutte le RSA è la Regione Lombardia, e lo fa attraverso le ATS, che sono agenzie, diciamo, della tutela della salute, che sono agenzie territoriali e sono, per capirsi, le vecchie ASL, no? Quindi le ATS mettono in pratica le indicazioni regionali e le RSA, diciamo, obbediscono in qualche modo. Vabbè, diciamo, annuncio brevemente che per entrare anche nel merito di questa discussione abbiamo un po' anche raccolto alcune testimonianze, e probabilmente sarebbe anche bello partire da una di queste. Sono testimonianze, diciamo, tra esponenti del terzo settore, parenti di persone ricoverate e o persone coinvolte a vario titolo, diciamo, in questa situazione, insomma, dentro all'assistenza sanitaria regionale. Io proverei a partire con la testimonianza di un parente. Sono una persona di 73 anni che ha perso sua moglie coetanea in questa tragedia del coronavirus. Mia moglie, che era una persona splendida, ha passato praticamente tutta la sua vita a cercare di aiutare gli altri. Era una terapeuta, era una psicologa, è stata un'insegnante di sostegno, un'ottima insegnante, che ha sempre scelto il sostegno in tempi non sospetti per aiutare i ragazzi che 30 anni fa non erano considerati dei soggetti titolari di diritti o cose del genere. E Io credevo che il mio caso fosse un caso eccezionale, perché mia moglie è morta prima che esplodesse il caso del Pio Albergo Trivulzio, che ha completamente rivoluzionato, secondo me, la percezione del problema, almeno da parte dell'opinione pubblica, e almeno io spero. Mia moglie era inserita in un'era affetta da una demenza grave, era da circa 2 anni ricoverata in un centro di estrema avanguardia, dove erano assistite delle persone, un piccolo gruppo di persone assistite molto bene, da un personale scelto, motivatissimo, sotto controllo medico, sotto controllo della medicina pubblica, della sanità pubblica. Non era una roba dei Celestini o un ghetto, era una struttura di estrema avanguardia che aveva una storia molto bella, un frutto di collaborazione di diversi soggetti sul territorio. Mia moglie è sempre stata curata bene. L'emergenza però ha spazzato via il discorso della cura, ha fatto perdere la tramontana a qualcuno, io penso soprattutto a chi ha gestito centralmente, regionalmente le varie emergenze. Purtroppo la storia del Piemonte non è diversa da quella della Lombardia. Mia moglie è morta perché c'era un posto in questa struttura di eccellenza e purtroppo dall'ospedale hanno mandato una persona asintomatica, l'hanno mandata un lunedì, totalmente asintomatica, la persona è stata assistita, è stata curata e poi il giovedì si è sentita male, il giovedì stesso le hanno fatto un tampone a questa persona inviata nella struttura dove era mia moglie e gli hanno fatto un tampone risultato positivo, ma purtroppo aveva già sparso il virus ovunque nella struttura dove è morta mia moglie in rapida sequenza nel giro della settimana. Il portatore del virus è morto subito nella notte tra il sabato e la domenica e poi in rapida successione mia moglie è morta, prima di lei è morta ancora una persona, ma alla fine sono morte 4 persone oltre al portatore del virus. Attualmente nella struttura, vabbè, dopo sono stati fatti finalmente i tamponi, anche questo, io dopo quell'episodio lì avrei tamponato tutto, anche i gatti presenti nella struttura, invece con molta fatica si sono conclusi da pochi giorni i tamponi, le verifiche presso il personale, comunque ci sono circa una quindicina di persone infette. Nel frattempo il virus sta serpeggiando anche negli altri reparti, speriamo bene, però siamo allo speriamo bene, nel senso che ancora questa politica di tampone a tappeto è stata fatta nella struttura di cui parlo io, esclusivamente al personale e ancora agli ospiti. Si sa che un paio sono finiti all'ospedale, uno è morto in ospedale. L'atteggiamento rispetto, ecco, mi ha fatto molto male in questi giorni leggere le storie del Trivulzio e leggere le storie della Lombardia, perché io credevo che il caso di mia moglie fosse stata una sfortunata eccezione. Purtroppo, mi sembra di capire che era, non dico la regola, ma era una prassi diffusa. E anche in Piemonte sono successi molti di questi casi, per cui gli ospedali sono diventati un po' delle centrifughe di diffusione del virus, ecco, con questa politica scellerata di trasferimenti e inserimenti nelle case di riposo. Niente, cosa dire? Come dicevo, l'emergenza ha fatto saltare tutto un patrimonio di realizzazioni, di impegno, di saperi, di sforzi messi in atto per lungo tempo in queste situazioni. Molto spesso si pensa che la casa di riposo o il centro Alzheimer siano dei luoghi un po' così, un po' sinistri. In realtà io credo, almeno per l'esperienza che ho avuto io, che c'è stato un patrimonio immenso di sforzi, dicevo, di impegni e di saperi. E il mio pensiero, io dopo la morte di mia moglie ho cercato di tenermi in contatto con gli operatori positivi che l'avevano curata, che sono stati contagiati da quello sciagurato inserimento, e ho cercato per quanto possibile, con l'aiuto di un medico locale che è anche impegnato storicamente, politicamente, eccetera, in consiglio comunale, vi discorrendo, di attirare l'attenzione su questa situazione. Però è molto difficile, perché io ho visto l'atteggiamento del potere, dei poteri che hanno gestito questa emergenza, un atteggiamento limitativo, negazionista, si tende a sminuire, a coprire. Basti dire che mia moglie e i suoi 4 compagni di sventura, 3 almeno, perché il portatore del virus che veniva da fuori comunque è stato tamponato, ma quelli che non sono stati sottoposti a tampone non risultano ancora oggi nelle statistiche, non risultano, sono morti di freddo, sono morti così. E poi nei giorni finali di questa tragedia e successivi, mi riferisco ai funerali, eccetera, sono stati semplicemente trattati come sospetti Covid. Quindi, questo era un avvertimento per le onoranze funebri, quindi che vuol dire niente vestizione, chiusura nella cassa di zinco immediata, niente visite, niente camera mortuaria, niente rosari, niente veglie, funerale con pochissime persone e rapidi, e molto rapidi. E qui veramente è dura, perché io credo che il nostro paese, la nostra gente, i lavoratori che si sono impegnati magari per degli anni, per 4 soldi, non meritavano un trattamento così, ecco, non meritavano loro di essere colpiti, non meritavano i nostri malati di finire in questo modo come degli oggetti. Gli episodi dei mucchi di morti, io ho avuto notizie tipo Trivulzio, ho avuto notizie simili, più in piccolo ovviamente, perché il Trivulzio è una grande casa di riposo, ma in piccole case di riposo ho sentito anche di 7, 8, 9 morti messi in cappelle, messi qua, messi là, con questo tipo di esequie tremende, ma ancorché necessarie, ma comunque tremende. E niente, adesso devo dire onestamente che tutta la storia del Trivulzio e seguito è stata per me fonte di ulteriore sofferenza in questi giorni, perché il mio dolore è iscritto in un dolore più grande, che è la cerchia della comunità nel suo complesso, che era della struttura dove mia moglie era inserita, ripeto, una piccola struttura altamente specializzata in un contesto però più ampio dove c'erano altri ammalati che stanno ancora lottando adesso, che non sono ancora stati tamponati, che non sono ancora stati tamponati e quindi non separati gli infetti da non infetti. E poi tutti questi due cerchi del dolore sono dentro un cerchio più vasto, che è il dolore generale della situazione generale, che veramente è stato un massacro, un massacro. Qualcuno ha gestito veramente male, qualcuno l'ha fatto, qualcuno, al di là del singolo errore, io voglio dire, io perché io ho anche un elemento, io non cerco rivalse, non cerco indennizi, non ho la frenesia di trascinare di fronte a un tribunale le persone che fino a ieri hanno curato bene mia moglie. Sono state vittime anche loro della pressione, io penso, venute dal centro dei centri regionali, che a un certo punto hanno dato questa scellerata direttiva, qualcuno l'ha data, e anche credo che ormai si sa abbastanza date, eccetera, da qualcuno l'ha data di trasferire, per decongestionare gli ospedali, di trasferire i malati di Covid nelle strutture RSA, nelle case di riposo. Questo è stato veramente un disastro. Ecco, allora, una cosa che mi ha, diciamo, colpita di questa testimonianza, vabbè, tra le tante, devo dire, è un po' questa doppia sofferenza, no? Cioè, in un certo senso, la prima per la storia che ci racconta e poi la seconda, no, per questa consapevolezza successiva che la propria esperienza non sia stata frutto di un errore situato, di una sfortuna, come dice lui stesso, bensì un errore comune e purtroppo ripetuto che ha toccato diverse RSA in diverse regioni. Però, nonostante questo, Pietro Foroni, che è l'assessore della regione al territorio e alla protezione civile, durante una, mi sembra, piuttosto ottimistica conferenza stampa sul coronavirus del 5 aprile, quindi recente, dice: c'è anche da riconoscere, e penso sia un dato oggettivo, che fino ad ora, come regione Lombardia, le abbiamo azzeccate. Certo, Foroni parla da politico, ma insomma le scelte della regione a trazione leghista, guidata da oramai i volti noti Fontana e l'assessore alla sanità Giulio Gallera, sono così azzeccate effettivamente? Probabilmente bisognerebbe un po' andarci dentro, come tra l'altro sta succedendo, no? Un altro dato, secondo me, che ci parla di questa possibile, metto tra molte virgolette, ma la gestione, sono sicuramente le proteste che ne sono scaturite nell'ultimo mese, no? A dire la verità, in realtà nelle ultime due settimane in modo più forte ed esplicito, che sono proteste veramente trasversali, no? Che in un certo senso non possono che mostrarci come le RSA siano purtroppo diventate, diciamo, il punto più debole di una catena gigantesca di scelte abbastanza non azzeccate, che trova tra l'altro nella Lombardia, diciamo, il suo epicentro. Le proteste vengono per esempio dagli operatori lombardi perché le RSA non sono adatte alla gestione di pazienti Covid, vengono dai comitati familiari perché vogliono capire come sono curati i familiari dentro, essendo anche impossibilitati, no, a entrare. Vengono dai sindacati per la tutela delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici nelle RSA, che ricordo sono prevalentemente OSS, infermiere, fisioterapiste, cioè lavoratori e lavoratrici delle pulizie anche. Vengono dai direttori stessi delle RSA e dal terzo settore, diciamo, che protesta contro l'ATS, ovvero contro la regione, e anche contro la protezione civile per la mancata distribuzione dei DPI, che sono i dispositivi di protezione, no? E anche per questa definita da loro stessi criminale richiesta di accogliere pazienti positivi al Covid all'interno di strutture già fragilissime, sia come utenza, no? Sia perché, diciamo, strutturalmente impreparate. E infine le regioni, e nello specifico quella lombarda, in protesta, o forse sarebbe meglio dire, diciamo, che scaricano il barile delle proprie responsabilità al governo. Quindi una catena di cose. Ecco, ti volevo chiedere, Fra, se sei d'accordo, in questo contesto generale che abbiamo un po' affrescato, iniziato ad affrescare, tu cosa pensi di questo rimbalzo di responsabilità tra regione e governo? Ma guarda, che è stato tragico, e lo è ancora, e poi intanto ti volevo ringraziare per questa ricostruzione e anche la testimonianza che abbiamo sentito, perché alla fine ci dà la misura appunto di quello che sta accadendo, che è una misura che non viene altrimenti restituita appunto se non dalle testimonianze che tu anche raccontavi, delle famiglie, degli operatori, dei medici, dei sindacati. E che appunto però sono una tragedia dentro la tragedia, un dolore dentro un dolore. E in queste settimane abbiamo sostanzialmente osservato tutta una serie di rimpalli di responsabilità, perché appunto a partire da quella sciagurata delibera e richiesta di trasferire appunto i malati Covid dentro queste strutture, ci sono stati alcuni episodi che magari appunto mi vengono in mente, che cito. C'è stata la lettera dei sindaci alla regione Lombardia che chiedeva appunto, era il 2 aprile, che cosa stava facendo la regione per proteggere il personale sanitario e gli ospiti delle RSA. E anche l'altra sera abbiamo visto appunto il sindaco di Bergamo che chiedeva sempre alla regione Lombardia perché è stato consentito ai familiari di visitare i propri cari fino a marzo avanzato, e appunto quando era stato richiesto di chiudere l'accesso la regione Lombardia aveva risposto di no. Sono tutte quello che lascia, cioè sono due cose secondo me che lasciano sconcertati per la gravità in tutto questo. Da un lato appunto la leggerezza di scelte che poi però sono appunto scellerate. Per le conseguenze che hanno, e dall'altro è come questo rimpallo di responsabilità alla fine sembri quasi una questione strutturale, perché per come è stata in vari, anche nella questione della zona rossa, per come si è strutturata questa cosa delle autonomie, alla fine sembra che si possa continuamente rimbalzare la responsabilità su altri e appunto e si rimane dentro una specie di rimbalzo che poi è anche un vuoto però di appunto di responsabilità politica che in questo caso punta alla regione Lombardia, in particolare se parliamo appunto del Trivulzio o di alcuni casi lombardi in modo molto forte. Sì, guarda, io non so, mettiamo una canzone e poi torniamo. There is Eccoci di nuovo qui. Allora, farei partire subito una seconda testimonianza di una donna che, diciamo, lavora all'interno, all'interno delle strutture. Ciao a tutte, provo a raccontarvi un po' velocemente, in una pausa sigaretta, che cosa c'è dietro quello che state ascoltando tutti in questi giorni per quanto riguarda la gestione delle RSA, delle case di riposo in tutta Italia e in particolare in Regione Lombardia, nel senso che quello che sta succedendo in tutta Italia, in Regione Lombardia, è particolarmente grave, perché di fatto ATS, ovvero il governo regionale, perché le ATS sono espressione del governo regionale, hanno in questo mese praticamente abbandonato tutti coloro che lavorano all'interno delle RSA. È di settimana scorsa un decreto che prevede di fare tamponi a ospiti ed operatori, ma noi sono da settimane che le persone dentro le strutture si ammalano, quindi i numeri che ascoltiamo sono numeri che non hanno, in realtà, che non sono completi, perché mancano tutte le persone morte nelle case di riposo, che si stima siano intorno al 15-20% dei residenti delle strutture per anziani, perché quello che succede è che si ammalavano, venivano segnalati al pronto soccorso, nessuno veniva a prenderli, e nelle strutture per anziani ovviamente non ci sono i dispositivi e le attrezzature mediche e neanche le competenze mediche per poter prendersi cura di situazioni di Covid in aggravamento, ma di più non c'erano neanche le capacità di creare delle aree sicure, nel senso che è un know-how che si sta cercando di apprendere mentre la situazione sta evolvendo. Nessuno sapeva gestire questa cosa, ovviamente, e la Regione Lombardia ha concentrato tutti i suoi sforzi sui presidi ospedalieri, non considerando minimamente la diffusione del Covid sul territorio ed in particolare nelle strutture dove le persone più fragili sono ricoverate, cioè gli anziani. Allora, in questo momento Gallera si sta difendendo rispetto ad un'unica DGR che è uscita all'inizio dell'emergenza, che ha bloccato gli inserimenti nelle strutture residenziali per anziani e chiesto alle RSA di ospitare Covid positivi in dimissioni ospedaliere. Lui si sta difendendo dicendo che non era un obbligo, ma il problema non è questo, il problema non è quello che è stato fatto, il problema è che non è stato fatto nulla. Ci sono una quantità di operatori malati che mettono anche in una posizione di legale difficile i legali rappresentanti delle cooperative, ma deve essere ben chiaro, secondo me, deve essere urlato, deve essere chiarito che il problema è stata la gestione di Regione Lombardia di questa emergenza. Io in questo momento sono in Toscana, dove sto aprendo un nucleo RSA Covid che ospiterà dimissioni ospedaliere, e anche qui sono stati fatti degli errori, ma se vi vedete le ordinanze della Regione Toscana rispetto alla gestione del Covid, è stata una gestione che ha visto il territorio e ha previsto delle modalità per andare incontro al territorio. E i risultati si vedono nel numero di persone malate, nel numero di morti. Probabilmente non si sapranno, perché queste cose si sanno da dentro, ma purtroppo appunto non fanno parte delle statistiche ufficiali. E ad un certo punto si faranno i conti, e l'unica cosa che spero è che, insomma, a pagare il prezzo di queste vite e di queste malattie anche degli operatori non siano i cooperanti, le cooperative sociali, ma siano i governatori, insomma, che le responsabilità politiche emergano. Vi auguro una buona giornata. Infatti, a partire da questa testimonianza, vi racconto che una nota diramata lo scorso 30 marzo insieme a UNEBA, Lombardia, e LEDA, che si occupa di diritti delle persone disabili. In questa nota il forum del terzo settore, che circa rappresenta, diciamo, sigle che operano nell'associazionismo e nel volontariato sociale, dice: A queste persone, una volta contratta la malattia, viene negato l'accesso ai pronto soccorso e agli ospedali, lasciandole morire nei loro letti. Muoiono nelle case o nei servizi residenziali senza poter avere accesso a tutte le cure a cui vengono invece sottoposte le persone che riescono a essere ricoverate. Sono persone che muoiono nel silenzio, spesso non rientrano neanche nel conteggio dei decessi per Covid-19, perché a loro è stato negato anche il diritto alla diagnosi, prima ancora che al trattamento e alla cura. Quindi si parla, diciamo, di più di un mese, di scelte che hanno portato, appunto, come dicevi tu, fra una tragedia nella tragedia, no? Cioè quella di, da una parte, non preparare adeguatamente le RSA, all'epidemia, addirittura anche a un certo punto suggerendo di aprirle ai pazienti positivi al virus, e quindi permettendo una letalità, diciamo, molto superiore alla media in queste strutture. Come diceva la testimonianza, si arriva a una percentuale veramente alta. Ma cosa è successo esattamente? Partiamo appunto da questo fatto che è la delibera dell'8 marzo della Regione Lombardia, ovvero nel giorno in cui il governo praticamente decideva di istituire una prima zona rossa di contenimento in Lombardia e in altre 14 province del nord Italia. Questa delibera, che è della giunta regionale, la numero 11/2906, chiede tra le varie cose alle ATS di individuare delle strutture RSA per accogliere pazienti positivi a bassa intensità assistenziale, ovvero sono quelli che non necessitano di cure particolari. Quindi per farlo, cioè per aderire a questa proposta, la struttura deve inserire la propria disponibilità in un portale della regione e o, come da diverse testimonianze, rispondere alle infinite telefonate che gli addetti dell'unità di crisi regionale hanno fatto in quei giorni per chiedere, diciamo, alle strutture di prendersi in carico uno o più contagiati. Interviene Luca Degani, che è presidente dell'Associazione delle Case di Riposo, UNEBA Lombardia, e dice: è stato come accendere un cerino in un pagliaio. E in più bisogna aggiungere che la libertà di scelta a fronte di strutture che ottengono circa il 30% dei loro finanziamenti è limitata. Per queste ragioni, diciamo, concorso di ragioni, molti, in tantissimi e tantissime, definiscono questa scelta, cioè questa richiesta inaccettabile, no? Però, diciamo che la Regione Lombardia, soltanto dopo più di un mese di lettere e di preoccupazioni, con la delibera del 30 marzo, comincia a parlare della necessità, diciamo, di un'adeguata sensibilizzazione e formazione dei residenti e dei visitatori, di test ai sintomatici, mettendo poi infine nero su bianco anche questo divieto di accedere alle strutture da parte di familiari e conoscenze. Però arriva un po' tardi, nel senso che il picco è oramai quasi passato. Nonostante questo, Gallera, in conferenza stampa sempre il 7 aprile, dice che il numero di pazienti Covid positivi trasferiti in RSA è stato limitatissimo e che è stato fatto per salvare altre vite. Questo bilancio poi lo vedremo purtroppo con dei dati, ma nonostante questa affermazione sempre molto ottimista di Gallera, molte RSA hanno denunciato e continuano a denunciare di non aver avuto nessuna linea guida, no? Fino a quei giorni, cioè fino ai primi di aprile, e che gli operatori sono allo sbaraglio e ai pazienti è ancora tuttora vietato il test o molto limitato, e neanche possono entrare, come diceva la testimonianza prima, nei triage ospedalieri. Insomma, un vero disastro. Fra, secondo te, diciamo, questa catena di errori, di goffaggini momentanee o non momentanee, cioè dietro a questa catena che sembra un po' di intuire, diciamo, un più o meno consapevole pensiero che in qualche modo ci porta a una sorta di selezione, no? A chi è degno di essere salvato, e quindi chi è degno di vita e chi lo è meno. Cosa dici tu? Penso che un po' appunto questa domanda avremo una risposta piano piano, un po' ce l'abbiamo già, diciamo appunto per tutte le testimonianze che stanno emergendo e che danno conto appunto delle scelte che hai elencato e che è difficile farne tante di così sbagliate, come dire. La cosa che mi colpiva in questi giorni è che, per esempio, oggi è uscito un articolo del Guardian che diceva, che raccontava un po' quello che sta succedendo nelle strutture per gli anziani, nei vari paesi d'Europa e, in Italia, in Spagna, in Francia, in Irlanda, in Belgio, in Inghilterra, secondo i loro dati, addirittura. Siamo tra, insomma, una percentuale altissima, diciamo, dei decessi avvengono nelle strutture per gli anziani. Quindi, da un lato abbiamo appunto il caso specifico con la delibera che hai detto, con la mancanza appunto di messa in sicurezza degli ospiti e del personale, con tutta una serie appunto di provvedimenti che, se andiamo dietro, diciamo, all'affermazione di Gallera di voler mettere, in alcuni casi, volendo essere comprensivi, diciamo che in alcuni casi, come in Inghilterra, può essere che l'assenza di letti abbia portato a cercare tutte le strutture disponibili. È certo che anche un bambino, perché abbiamo comunque imparato a conoscere questo virus insieme, essendo un virus nuovo, e lo si è detto dall'inizio che appunto ci sono persone più vulnerabili rispetto, che quindi richiedono una maggiore protezione. Invece qui è stato fatto l'opposto, cioè è stato portato un rischio laddove ci doveva essere una maggiore tutela. A me quello che letteralmente lascia bocca aperta è la normalità, appunto, di questa, non è una strategia dannata, però insomma, di quello che è successo in così tanti posti. E quindi cioè a voler seguire un po', diciamo, la tua intuizione, il tuo spunto, un'altra cosa che a me colpiva tantissimo in questi giorni è quello che sta succedendo anche negli Stati Uniti, dove lì c'è stata una decisione consapevole di deliberare in 25 stati di non dare i respiratori, per esempio, alle persone disabili o alle persone che hanno appunto una malattia cronica. E pertanto c'era un articolo molto bello su Avvenire l'altro giorno, cioè molto bello ma profondamente tragico, in base alla quale appunto il titolo, cioè, diceva strage di disabili negli Stati Uniti perché muoiono a un ritmo di 5 volte superiore del resto della popolazione. Per cui è evidente purtroppo che nonostante tutto ciò che appunto abbiamo imparato tutti rispetto al diverso modo dei corpi di interagire con questo virus e alla maggiore cura, letteralmente cura, che bisogna avere in caso di appunto persone immunodepresse piuttosto che fragili o anziane, che in molti casi bisogna dire che i poteri che hanno gestito questa crisi hanno agito in barba a questa minima sensibilità o a questa minima appunto necessità appunto di cura, facendo esattamente l'opposto. Sì, anche a me le storie, diciamo, le testimonianze che ci arrivano dall'America lasciano molto, diciamo, sotto shock. Una cosa che mi tocca molto è anche proprio tutto l'aspetto dei malati cronici, ai quali viene proprio letteralmente sottratto il dispositivo in quanto limitato, no? E mi chiedo anche un po' come deve essere personale medico, no? In questi momenti dove sembra che la responsabilità sia tua, però la verità è che è una responsabilità molto più generale, no? E e di fatto in qualche modo anche collettiva. A proposito di diciamo carenze di dispositivi, vorrei lanciare la terza testimonianza, che è di questa donna fisioterapista che appunto lavora dentro le RSA. Ciao, sono Paola, una fisioterapista, lavoro in Toscana, sul territorio. Venerdì la nostra azienda ha deciso che tutti gli operatori devono sottoporsi ai test immunologici. Io l'ho fatto e stamattina ho fatto il primo tampone, essendo risultata positiva. Domani, giorno di Pasqua, farò il secondo. Molto bene, direte voi, molto celeri, certo, molto celeri. Il problema è che se tutto questo veniva fatto forse un mese fa, sarebbe stato molto meglio. Io lavoro nel territorio e quindi potenzialmente mi sono potuta contagiare oppure ho potuto contagiare qualcuno. Anche se chiaramente sono stata molto molto attenta a tutte le misure da prendere precauzionali, ma capite bene che la fisioterapista non può lavorare a 1 metro di distanza, soprattutto quando ti trovi a casa delle persone. I dispositivi che ci sono stati forniti inizialmente, non parlo di adesso, ma inizialmente, erano totalmente insufficienti. Tant'è che noi ci siamo organizzati con mascherine fatte in autonomia, mettendo all'interno qualunque cosa potesse impermeabilizzare, impedire il passaggio, e l'abbiamo fatto proprio da soli, cambiandole quotidianamente e disinfettandole appunto in autonomia a casa nostra. Voglio testimoniare appunto questo, che la Toscana è stata fortunata perché comunque forte dell'esperienza lombarda o forte dell'esperienza di altre regioni in cui veramente è stato il delirio. Abbiamo potuto trarre veramente insegnamento, però chiaramente poteva molto di più essere stato fatto, soprattutto potevano essere ascoltati un po' di più i lavoratori che veramente si sono trovati in trincea e spesso, appunto, si sono dovuti organizzare per poter svolgere al meglio il proprio lavoro. Io mi auguro fortemente che da questa esperienza ne possiamo trarre un grande, grandissimo insegnamento, soprattutto in termini di risorse date alla sanità pubblica. Grazie, ciao e incrociamo tutte le dita per tutti noi, per tutti noi. Ciao. Allora, Valeria Negrini è la presidente di Confcooperative Federsolidarietà, che è un ente che unisce 1200 cooperative circa sul territorio lombardo e che svolgono appunto servizi nel terzo settore, tra cui l'ambito dell'RSA. Lei dice: in molti altri contesti in cui ci si è trovati a trattare pazienti Covid sono mancati i dispositivi di protezione del personale sanitario. Nel caso dell'RSA bisognava invece proteggere anche i pazienti particolarmente fragili e vulnerabili dal rischio che il personale medico e infermieristico portasse inconsapevolmente il virus all'interno delle case di riposo. Quando si è iniziato a fare, in molti casi era già troppo tardi. Poi continua. L'invio di DPI, che come vi ricordo è sempre diciamo, il materiale di protezione, è stato scarsissimo, tardivo e insufficiente, e lo è a tutt'oggi. Tutte le strutture si sono quindi dovute arrangiare con costi ingenti, vista la speculazione che c'è stata subito dopo. Ognuno ha fatto da sé, cercando ogni tipo di contatti per recuperare i dispositivi che servivano, soprattutto grazie alla generosità delle fondazioni di comunità o a quelle bancarie. Insomma, la società ha supplito dove è mancata la regione. Anche da queste parole è chiaro che queste strutture non potevano essere preparate a gestire l'emergenza e quindi pensare che i pazienti Covid-19 potessero in qualche modo entrare lì dentro, no? Mi sembra che questo sia stato un errore piuttosto grave. Tra l'altro, l'attenzione dell'RSA in questi giorni di lettere e in qualche modo preoccupate e anche di denuncia non va solo a toccare i dispositivi e quindi le mascherine e il resto delle cose, ma è anche molto concentrata sul personale che è decimato, no? Tra malati, contagiati, asintomatici. asintomatici e altri in quarantena. Cioè, per esempio, ci sono stati casi in cui un operatore o un'operatrice è rimasta sola a badare a decine di ospiti, perché poiché appunto, diciamo, era molto difficile reperire altri infermieri. Sempre Negrini aggiunge: lo sguardo della regione Lombardia è andato solo in direzione degli ospedali, dopo quasi un mese e mezzo che il contagio era arrivato. Quindi quello che è successo è che molti si sono arrangiati. Per esempio, c'è un caso di questa RSA a Zogno diretta da Bellotti, che si è mosso, diciamo, da solo, no? In prima persona per rifornire i medici che lavoravano nella sua struttura e gli infermieri di protezioni nei giorni caldi dell'emergenza, non adesso. Come anche ha chiuso a titolo del tutto personale il suo istituto quando ancora le direttive regionali lo permettevano. Ecco, nonostante questo, nella sua struttura sono morte 87 persone a marzo 2020 a fronte di 6 persone nello stesso mese del 2019. In altri casi, invece, e qui leggo una testimonianza che ci è arrivata scritta da un'altra fisioterapista, virgolettato: abbiamo pregato settimane fa di darci almeno le mascherine chirurgiche e il capo ce le ha sbattute nel viso dicendoci che con quelle dovevamo pulirci il puntini puntini e che a noi piaceva il perizoma. Evidentemente non si è reso conto del pericolo o non ha voluto rendersene conto e ora ci ha detto che ci darà un premio per quelle di noi che hanno continuato a lavorare. Ecco, una bellissima testimonianza anche questa. Io direi che, insomma, questa emergenza ha un pregio, che è quello di mostrare senza pietà, direi, e probabilmente anche a una sfera più ampia di persone, tutto ciò che non funziona da tempo, no? Nello specifico, molte cose anche riguardano le condizioni di lavoro in Italia, nel settore che appunto viene definito la riproduzione sociale, no? In questo caso specifico, diciamo, delle strutture sanitarie, parliamo di appunto OSS, infermiere, la fisioterapista. Francesca, come leggi questo svelamento? È molto forte, nel senso brucia, cioè è talmente forte che appunto da un lato è un disvelamento che aiuta a livello politico perché ti mostra delle cose, dall'altro fa male. A me veniva in mente quello che mi diceva un'amica che è un medico in un'altra regione italiana. E lei su questa cosa appunto della strategia di sostanzialmente combattere il virus negli ospedali, lei diceva, e lo diceva con tutte le fatiche che stanno emergendo anche durante questa trasmissione, cioè fatiche appunto di una donna che ha dei figli, che si sposta, va a vivere in un albergo per mettere al sicuro la famiglia, quindi con tutte le paure, le angosce del caso. Però diceva che nel suo caso si era trovata una strategia, che era una strategia di intervento che era tutta incentrata nell'intervenire presto e quindi non di aspettare appunto che il paziente avesse già la febbre e che poi andasse a finire direttamente in terapia intensiva, ma di fare più un lavoro di prevenzione e pertanto di fare più un lavoro di comunità, fare un lavoro di intervento a livello del territorio per capire appunto anche come si sta muovendo l'infezione e di intervenire nei casi appena appunto possibile, insomma il prima possibile, anche perché sia più facile poi curarli. E tutto questo è appunto un modello che appunto, come dicevi tu prima, è un po' l'opposto di quello che si è visto a Milano e che però ci riporta anche di fronte a che cosa deve essere appunto un lavoro di cura e a come tutto lo smantellamento delle strutture che erano presenti nel territorio anche soltanto 20 anni fa, non solo in Lombardia, anche in altre regioni, questi continui tagli, questo processo di privatizzazione ci abbia portato sostanzialmente sguarniti di fronte all'emergenza, cioè con le armi letteralmente spuntate prima ancora del malgoverno, e andando a fare leva solamente appunto troppo anche su persone che hanno dovuto rischiare sulla propria pelle, vivere appunto con un'intensità che non sarebbe nemmeno così, insomma, che nessuno dovrebbe sopportare dal punto di vista fisico e emotivo, tutto quello che è, tutta questa emergenza. Sì, sono d'accordo. Cioè, sembra proprio saltare, diciamo, un'idea di organicità, cioè di concepire la cura come un insieme di aspetti sociosanitari, appunto, no? Che invece un approccio interventista, che è un po' dettato anche da vedere, da creare prodotti e vedere clienti, ecco, questo approccio qua cancella molto, no? Esatto. Che poi questo servizio alla persona o alle comunità più territoriali era l'elemento cardine su cui nasce il Servizio Sanitario Pubblico nel 78, in cui appunto si legge un approccio preventivo, non gerarchico, territoriale e che sia capace di connettere scienza e società. Ce lo siamo un po' dimenticate. Farei partire una canzone così per staccare un po'. Ecco, ripartiamo con l'ultima testimonianza di stasera, che è di Andrea Cegna, che in questi giorni ha scritto molto intorno a questa questione. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici, compagne e compagni. La questione RSA in Lombardia mi pare una questione centrale perché racconta come la gestione dell'emergenza sanitaria da parte della regione sia stata totalmente concentrata sugli ospedali e non sul territorio e sul territorio diffuso. E nella necessità da parte della regione di liberare posti in ospedale, appunto, è arrivata la folle proposta di chiedere alle residenze sanitarie per anziani di fatto di ospitare in padiglioni a parte malati post-acuti Covid. Una proposta già di per sé ambigua e imbarazzante per il semplice fatto che il Covid-19, avendo un alto tasso di mortalità, soprattutto in età avanzate, insomma, avrebbe dovuto suggerire che bisognerebbe tutelare alcuni luoghi. D'altra parte, è una idea strampalata, perché non considera una delle questioni, uno dei problemi che stanno vivendo anche gli ospedali, ovvero che moltiplicare nei luoghi di cura il numero di malati senza rinforzare numericamente il personale che se ne deve occupare aumenta lo stress lavorativo delle persone, abbassa i livelli qualitativi della cura, oltre ad aumentare il rischio che chi è personale sanitario diventi il propagatore del virus. Quindi queste due questioni che convivono e sono all'interno di questa idea della regione mostra appunto, insomma, anche un po' l'impreparazione della gestione di questa emergenza. E soprattutto la perseveranza nel portare avanti il percorso, tant'è che la delibera regionale dell'8 marzo, una delibera che non è mai stata cancellata e quindi insomma fa capire come la Lombardia, come la regione Lombardia in questo mese e mezzo oramai non abbia mai modificato quantomeno in maniera pubblica lo sguardo e la direzione di gestione del territorio per limitare la pressione sugli ospedali, ma non svuotando gli ospedali, creando un rapporto sinergico con tutte le attività di prevenzione e di mappatura del territorio, come il tamponamento di massa, il tamponamento e lo studio degli anticorpi del personale medico-sanitario ed essenziale. Insomma, è una vicenda centrale, oltre che drammatica, perché i dati a oggi ci raccontano di migliaia di morti dentro l'RSA. I dati ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità, raccolti su poco più di 150 RSA sul territorio lombardo, a fronte di un 708 totali che ci sono nella nostra regione, ci parla di circa 1.000 morti. I numeri ufficiosi ce ne dicono solamente 600 nella Bergamasca, oltre 150 nel Bresciano, e insomma, poi ci sono tutti i numeri del territorio di Milano e provincia, che solamente tra Pio Albergo Trivulzo e Medilla ci dipinge una situazione drammatica fatta di davvero centinaia e centinaia di casi. Quindi boh, io evidenzio e alimento questi limiti profondi nella gestione che appunto partono da un discorso, ovvero della ossessione della Regione Lombardia nella gestione possibile e unica del Covid-19 dentro le corsie di ospedali e da cui derivano le follie come l'ospedale in fiera e appunto la proposta che le RSA possano ospitare malati post-acuti Covid-19. Ciao! Ecco, come anticipa la testimonianza di Cegna, e come in ogni puntata, è il momento dei dati che ci tengo sempre a dire, perché in qualche modo ci aiutano a vedere ciò che non vediamo. In questo caso vi leggo alcune parti appunto di questa indagine nazionale dell'Istituto Superiore della Sanità fatta impatto sull'RSA di tutta Italia. Tra le domande più indicative ce ne sono varie, diciamo, ce n'è una che chiede quali sono le principali difficoltà nel corso dell'epidemia di coronavirus. E ci sono diverse risposte, tra cui mancanza di farmaci o dispositivi. Insomma, il risultato è che secondo questa ricerca e soprattutto secondo le RSA che hanno risposto a questa ricerca, l'85,9% delle strutture riporta la mancanza di dispositivi di protezione individuale, mentre il 17,7% ha riportato una scarsità di informazioni ricevute circa le procedure da svolgere per contenere l'infezione. Quasi il 12% segnala una carenza di farmaci, il 35% l'assenza di personale sanitario e l'11,3% difficoltà nel trasferire i residenti affetti da Covid-19 in strutture ospedaliere. Un'altra domanda di questo questionario mandato in giro per l'Italia è stato eseguito un programma di formazione del personale sanitario o di assistenza anche con esercitazioni pratiche specifico per Covid-19? Il 63,9% dice che di non aver ricevuto una consulenza ad hoc per appunto la prevenzione e il controllo del Covid. Un'altra domanda è stato eseguito un programma di formazione del personale sanitario e di assistenza sull'uso corretto dei dispositivi di protezione? Il 46% dice no, il 54% risponde sì. Un altro elemento abbastanza, diciamo, indicativo rispetto anche alle storie che abbiamo sentito durante questa puntata è la questione dell'isolamento, no? La domanda chiede se l'isolamento ha costituito un problema per le strutture. E a livello nazionale il 47% delle RSA dichiara di poter disporre di una stanza singola per i residenti con infezione confermata o anche solo sospettata, mentre il 24,9% dichiara di avere difficoltà nell'isolamento dei residenti affetti da Covid-19. Leggendo questi primi dati, Francesca, mi sembra un po' così anche qui leggere che questa storia delle RSA racchiuda non solo ciò che viene definito, diciamo, una caterva di errori, ma un po' rivela molti dei problemi strutturali della regione, nello specifico Lombardia, ma insomma anche altre, in materia sociosanitaria. Tu cosa dici? Ma è un po', in fondo torniamo un po' a quello che dicevamo prima, cioè il fatto che si è persa la prima parte di questa parola sociosanitaria, cioè si è persa la parte, la vita della società, cioè i processi che avvengono dentro la società, nel senso la protezione sociosanitaria. Ormai si pensa appunto agli ospedali, però ci siamo persi proprio insomma tutto un lavoro di prevenzione, di cura, di formazione che potrebbe essere fatto nei territori. Di fatto si potrebbero fare tantissime cose, immaginare moltissime cose, però sappiamo com'è andata appunto la gestione negli ultimi 20-30 anni. A me, mentre leggevi i dati, mi venivano in mente due cose, perché prima appunto citavo questo pezzo del Guardian e non avevo detto i dati, perché devo dire che quando li ho letti mi hanno letteralmente tolto il fiato, perché secondo quello che riporta il Guardian, in tutti i paesi che citavo prima, appunto Italia, Spagna, Francia, Irlanda, Belgio, la percentuale, loro dicono i decessi nelle RSA rappresentano tra il 42 e il 57% dei decessi totali per Covid. È chiaro che sono numeri che questa è una ricerca che viene fatta da ricercatori della London School, per cui uno tende a crederci, però appunto come diceva Andrea Cegna prima, come dicevi tu, siamo in una sorta di limbo tra i dati ufficiali e tra quello che sta emergendo. Sentivo appunto per il Bergamasco si parla di 1100 persone circa. Secondo me sono dati spaventosi, nel senso che se questo è la verità che sta emergendo, intanto diventa una questione politica conoscere la verità, e poi vorrebbe insomma ha delle implicazioni piuttosto serie, ecco, secondo me, in termini di mancanze. In termini di mancanze, per andare a tornare alla tua domanda, c'era sempre quella lettera, appunto, che comunque è una buona guida in tutto questo. La citavi tu all'inizio. La lettera della Federazione degli Ordini dei Medici Chirurgi, esatto, e loro avevano dato tutta una serie di punti, degli errori che erano stati fatti in Lombardia, e solo un po' una cartina attorno al sole, ma anche un faro, insomma, un po' di ciò che è stato sbagliato, ma anche la direzione. E l'ultimo era proprio appunto la questione del territorio, quindi il tornare a fare appunto prevenzione, formazione, cura nel territorio. Mi sembra che alla fine torniamo un pochino sempre a questo punto qui, che diventa il punto centrale. Sì, sono d'accordo. Anche questa questione della gestione dei dati deve rientrare, diciamo, tra le varie questioni politiche che affronteremo e che forse andrebbero anche affrontate già da subito insieme, per fare, a mio avviso, una piccola sintesi: la questione delle privatizzazioni delle strutture sanitarie e dei servizi di cura, la non protezione dei lavoratori e delle lavoratrici in funzione anche appunto di queste privatizzazioni, per esempio la testimonianza dell'infermiera del Pio Albergo Trivulzio, che racconta che le è stato impedito di indossare la mascherina per non spaventare i clienti. È un esempio abbastanza drammatico riguardo, come anche l'incapacità gestionale sia sulla distribuzione dei dispositivi di protezione sia sulla formazione, e infine appunto, come continuiamo a ripetere, diciamo un modello di cura basato sulla centralizzazione delle strutture invece che su un piano territoriale, no? Quindi più organico, con un approccio più preventivo, eccetera, eccetera. Metto un pezzo di musica. Goodbye, my dear. Ecco, questa canzone meravigliosa è di Cosmesi, che ha fatto un disco e l'ha chiamato Cosmesi ha fatto un disco. Per andare in chiusura volevo dare ancora un paio di dati. Allora, il numero di RSA pubbliche convenzionate in Lombardia è, come diceva Cegna, 677, di cui il 50% hanno più o meno tra i 50 e i 100 ospiti. Il totale di questi, cioè di questi ospiti in Lombardia prima del 1 febbraio, è 13.287. Sto sempre dando i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. La Lombardia ha un totale di decessi da febbraio, di 1.822 persone. Ed è in assoluto la regione che ha registrato più morti nelle residenze, nelle RSA, con un grosso stacco, diciamo, rispetto a tutto il resto delle regioni. Cioè il Veneto, che è la seconda, dove il numero, è 760. C'è da dire che la Lombardia è anche la regione che in Italia presenta la maggior concentrazione di case di cura per anziani, appunto qui ce ne sono 677, mentre in Veneto 520. Eppure la percentuale di decessi sugli ospiti nelle strutture in Lombardia è del 47,2%, quella del Veneto è del circa 20%, che è comunque alta, ma diciamo in Lombardia è veramente letale. Quindi nel totale in Italia i soggetti deceduti sono 3.859. Questo è uno studio che è uscito neanche una settimana fa, possibile che i numeri si siano alzati. Di questi circa 4.000, solo 133 sono risultati positivi al tampone, cioè hanno più o meno fatto il tampone. Quindi un po' la domanda è quanti tamponi sono stati fatti sì, e in che situazioni, no? In questa situazione un po' generale di, devo dire, catastrofica, un po' da manuale della peggior politica italiana, la scorsa settimana arriva una notizia che poi fortunatamente è stata ritirata, però su cui a mio avviso bisognerà un po' tenere alta l'attenzione ancora, della presentazione alla Commissione Bilancio del Senato da parte di maggioranza e opposizione di una serie di emendamenti al decreto Cura Italia per tutelare i medici e il personale sanitario di vario grado contro appunto eventuali denunce e azioni legali, creando di fatto uno scudo penale, no? Si propone di cancellare ogni tipo di responsabilità del personale sanitario, fatte salve violazioni macroscopiche, mentre per quanto riguarda il personale amministrativo dirigenziale non vengono previste possibilità di imputazioni. Quindi, se da una parte, come è successo spesso in situazioni di emergenza enorme, è perfettamente comprensibile adottare tutele legali per il personale sanitario, anche perché è stato costretto, abbiamo visto, a lavorare in condizioni disumane e totalmente noncuranti, no? Delle sicurezze minime. Anche, per esempio, il tasso di decessi tra i medici è altissimo e anche qui la Lombardia vince il premio. Però quello che non si spiega è perché questo scudo penale, volesse essere esteso anche alle figure direzionali e manageriali del sistema sanitario, ovvero regione, no? ATS regioni, che mi pare invece dovrà, in qualche modo rispondere a delle, gravi negligenze. Per chiudere, Francesca, ti volevo un po', chiedere secondo te quali sono le prospettive di lotta che ci aspettano in questo contesto, no? Nel contesto della cura, in questo caso specifico della salute, però forse anche andando un po' oltre. E quindi oltre intendo questo grande ambito della riproduzione sociale, no? E se questo ambito appunto possa essere un elemento centrale per in qualche modo ribaltare uno dei cardini attraverso cui il capitalismo contemporaneo si dispiega, no? Che è quello appunto di sostituire la persona con il cliente. Sì, dunque non lo so, io ci sto pensando un po', forse ci stiamo pensando tutti in questo periodo, cioè è come se ci fosse arrivata addosso una, così, un ritorno di realtà crudo e quindi un po' quello che mi viene da dire è che che da un lato questo ritorno di verità va usato, e dall'altro mi viene da dire che appunto la cura è stata poi, è stato poi un istinto, cioè una specie di istinto di proteggerci, mi viene da dire, la società, l'ho visto anche qua in Inghilterra, la società impara un po' a proteggersi, ha un istinto di protezione. E mi sembra che questa cosa sia quella fondamentale adesso, perché poi si tende a dire ricordiamoci di, invece in realtà secondo me esiste proprio un qui ed ora, che tanto più in questo caso diventa importante, nel senso che secondo me appunto quando parli di prospettive di lotta, secondo me adesso ce n'è una in particolare, nel senso come dicevamo prima, è una questione anche di cura nei confronti dei nostri genitori, dei nostri nonni, ma anche delle generazioni che vengono, dei bimbi, di capire che cosa è successo, di capire perché appunto ci sono stati così tanti medici appunto che hanno perso la vita in questo processo, così tante persone nell'RSA. Io penso sia proprio una questione di cura, voler capire esattamente cosa è successo, volere la verità, ma anche volerla non di per sé, ma per cambiare le strutture nel sistema sanitario, nel modo in cui ci si prende cura l'uno dell'altro, adesso proprio, nel senso che diventa appunto l'unico modo di tutelare noi stessi, per cui la vivo come un'urgenza più che come un poi, anche perché tutta questa storia un po' ci ha insegnato che il poi è relativo, noi non lo sappiamo se c'è. E appunto per mettere in sicurezza anche adesso si parla di fase 2. Prima di arrivare alla fase 2 bisognerebbe capire che cosa non ha funzionato nella fase 1 e quindi per capire cosa non ha funzionato nella fase 1 tutti questi elementi vanno messi in fila appunto come hai fatto tu questa sera in modo proprio limpido a protezione della società. Quindi la cura diventa una forma di lotta, il modo in cui noi proteggiamo noi stessi come società. Sì, sono molto d'accordo. E poi anche il fatto che si dice sempre, no? La riproduzione sociale è invisibilizzata. Ecco, mi sembra che questa cosa che dici, no? Di capire cosa è successo in questa fase 1 per passare alla fase 2, che poi si può anche fare un parallelismo appunto su delle prospettive di lotta, cioè capire il presente, no? In questo senso penso che anche queste lettere, queste parole da parte di chi in questo momento è nel presente più di altri, sono parole che devono essere visibilizzate, no? E quindi penso che appunto affiancarsi alle loro lotte sia, che poi è la nostra lotta, perché intendiamoci bene, sia però una cosa fondamentale e da capire come agire, diciamo, da oggi e non in questo futuro che spesso viene appunto evocato anche così, anche nelle nostre idee di lotte, e però mi sembra spesso che manchi un po' un presente da cui in qualche modo incarnare, no? Appunto quello che verrà. Io ti volevo salutare e ringraziare tantissimo. Grazie Madhu, io ringrazio tantissimo te, non una di meno, e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici alle testimonianze. Grazie mille, adesso io faccio le comunicazioni di chiusura e quindi ti libero. E ci Va sentiamo presto. bene. Grazie mille. Benissimo, grazie ancora. Allora, prima di chiudere, come sempre, vi ricordo che il lunedì, il mercoledì e il venerdì siamo qui on air, come si dice, sempre dalle 19 più o meno alle 9. Siamo su Radio Lotto tutto l'anno e anche contemporaneamente su Radio Virus. E il giovedì ospitiamo su Radio Lotto tutto l'anno le ribelle di Zam, sempre alle 19. E poi vi invito a contribuire alla radio inviando gli audio, che come vedete sono utili per leggere un po' appunto questo presente, e di seguirci sui social, che sono sempre in una di meno trattino appunto Milano. E poi abbiamo anche un canale Telegram che è https://t.me/radiolotto. slash non una di meno Milano. Andremo avanti per una mezz'oretta con un po' di musica. Ciao! Save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I need somebody like you. I never dreamed I knew somebody like you. Thank you.

that's my baby. My heart. so fit, so full of spark. With affirmations as your wall art, you were driven. Most people are crushed into servitude.